Io sarei davvero imbarazzato se da non fiorentino dovessi mettermi a parlarvi di Novoli. Per questo mi limiterò a dare un caldo benvenuto ai nostri ospiti, il Piero Osti di Novoli Bene Comune e l'autore del libro La Storia Infinita, Alberto Di Cinzio. E gli cedo la parola. La Silvana anche, la Silvana. Cosa? No. Ah, le conclusioni, scusa. Vai Piero. Prima Piero. Guardate, buonasera a tutti. Buonasera. Tra l'altro voglio partire da questo punto. Siccome qui ho visto tantissimi giovani, è una gran bella notizia, è un gran bel vedere tante persone giovani accomunate da gli stessi ideali, probabilmente, a quanto ho capito. Siccome mi pare alle murate, quando nella presentazione di questo libro di Alberto, io l'ho chiamato abbecedario, nel senso che il nostro percorso come associazione Novoli Bene Comune e il Dipartimento dell'Università ci ha aperto gli occhi che erano o chiusi o distratti o, come si dice ora perché è così, veramente indifferenti. Poteva succedere intorno a noi tutto di più, ma te ne fregavi altamente. Il tuo obiettivo, il tuo confine era la porta del tuo appartamento, non del eventuale condominio, del tuo appartamento. Il resto, per uscire da questa situazione, abbiamo fondato questa piccola associazione con un plus, lo chiamo plus, non so se si dice plus in inglese, ma io lo chiamo in italiano perché anzi gli anglicismi non li sopporto. Ma allora, questo plus che è stato quello, questo l'ho chiamato connubio virtuoso con l'Università di Firenze, Dipartimento d'Architettura. Perché si è pensato a questo? Abbiamo pensato a questo per evitare di essere presi e portati per il naso a girare da tutte le parti, ti raccontavano quello e quell'altro, senza che noi si potesse replicare alcunché. C'è da dire questo, che questo percorso, che dura, sono 3 anni ora, quattro, si va per il quarto anno, c'era una forte necessità dalla base, cioè dalle persone normali, della insostenibilità della situazione. Andare avanti a questa maniera, non a tutti chiaramente, perché come detto, chiudendo la porta di casa, hanno questa tragedia dentro, perché poi studi approfonditi hanno dimostrato che questa tragedia rimane all'interno, incomunicabilità e quant'altro. Insomma, per farla breve, abbiamo iniziato questo percorso ripartendo dalle radici, cioè dire, le chiese millenarie, sempre sotto la guida, non è che non ci sia dei fenomeni. Questo connubio ci ha dato la possibilità di diventare dei piccoli fenomeni, ma non personalmente, ma come associazione, per questo modo di ragionare e di pensare. E abbiamo cominciato a analizzare tutto il territorio. Novoli, con l'accio ferroviario, viale 11 agosto, sono 35.000 abitanti. Non c'è zona più disastrata di Firenze che questa. L'architetto Detti, un grande personaggio allora, aveva previsto un grande sviluppo per l'area nord-ovest, cosa che non è mai avvenuta. Ci hanno messo le mani quando ne avevamo bisogno, la speculazione ha fatto grandi schifezze, cominciando dall'antico Firenze Nova, il Magnifico, che sono tutte abbandonate, Firenze Nova, che comincia a respirare, a avere una parvenza di quartiere, un picco di zona abitabile, perché c'è, nel corso di 30 o 40 anni ci hanno fatto, mi ricordo all'epoca si mise le firme che volevano chiudere il cimitero, sicché si può sapere cosa non venne fuori. E comincia a respirare un pochino ora, ma sempre poco, perché insomma, sempre dicono non è periferia, è periferia, molto periferia. Ora comincerà a salire, poi sai, comincia, dice no, non è più, dice ma cosa nasce? Nasce anche questi mangifici, perché siccome c'è venuto funzioni importanti, il Palazzo di Giustizia, la sede della zona centrale ex Cassa di Risparmio in Testa San Paolo, poi c'è la scuola dello Schifezza di Scuola dei Carabinieri, per non dirne altro, ma io metterei in mezzo anche la Galileo, un vero schifo, una vergogna, vabbè, ma diciamo che fuori zona non se ne parla. Allora abbiamo cominciato a scavare in questo territorio dandoci delle radici, le chiese millenarie che hanno resistito su input di Alberto, me lo ricordo primi tempi, su input di chiese millenarie, hanno resistito alla speculazione, chi in maniera più decente, chi in maniera meno. Per esempio San Donato in Polverosa c'era la fastosa villa Demidoff, mi è venuto fuori un affare incredibile. Hanno fatto il sagrato della chiesa, Dio ce ne scampi liberi una volta che la mia. Santa Maria Novole si è difesa un po' meglio. All'epoca perse tutto il grande parco. Cioè, noi abbiamo una foto aerea del 32. Praticamente Santa Maria Novole è l'unico luogo dove c'è i fini, cedri del Libano, all'epoca usava a mettere i cedri del Libano, poi il resto erano tutti i campi coltivati più o meno, era già stata risanata dalle paludi che c'erano. Se vi capite di leggere qualche libro, c'erano molte zone padulose. E abbiamo ricostruito, questo perché è stato fatto? Per ricostruire un'identità, perché essendo una zona dove sono arrivati da tutte le parti, c'è da metterli insieme queste persone, a creare una comunità. E si è cominciato a ragionare, si faceva, mi ricordo, gli incontri nelle varie sedi, il circolo Ligacci, le chiese, lo circolo della Scherma, alberghi, ci ospitavano senza spendere una lira, naturalmente, perché soldi non se ne deve nemmeno parlare. E siamo andati avanti, abbiamo avuto molti colloqui con l'amministrazione, perché abbiamo sempre detto, con idee diverse, perché io volevo una cosa e loro ne volevano fare un'altra, con idee diverse, bisogna comunque parlarsi. Se il mio, diciamo, interlocutore è la ministra, non senti, date pazienza, qualcuno ha parcheggiato davanti all'entrata di Buddisti, ma la nostra, scusate, ma è urgente, cioè qui dentro, da qua davanti, ma cos'è? Ah, sulla strada, sul cancello, però sì, che macchina è? Però nessuno, noi siamo dentro. No. Non la vorrei fare, fermami se la inizio proprio da lontano. Ma d'altra parte, scusa, se vengo in un posto e non conosco nessuno, gli racconti chi siamo, no? Bisogna coraggio. Sì, e questi che vogliono. Allora, questo l'abbiamo fatto per il grande desiderio di formare una comunità. Questa è una comunità, perché ho parlato con varie persone, autogestita a quanto capisco. Non è facile farlo fuori da un cerchio anche grande ma sempre ristretto, cioè, se tu lo fai un rione non è complicato. Bisogna formare cittadini, cioè bisogna formare le persone a stare insieme. Questo nel quadro generale. Siamo riusciti ad avere qualcosina, verrà fatto un mercato nuovo in via Giardino della Bizzarria, proprio per fare punti di aggregazione per le popolazioni. E fin qui si potrebbe dire abbastanza soddisfatto, sì, una fatica insomma, una fatica immensa, perché insomma se donò questa fatica, 3 anni poi, la pandemia ci ha tagliato anche un po' le gambe. Siamo arrivati a questo punto, però il nostro scopo è quello del controllare, formare i cittadini a essere cittadini consapevoli, che non è che chiusa la porta di casa, no, perché dopo tutti i lamenti, se fuori succede gli sfascelli, come sono successi, a nuovo, cittadini consapevoli, disposti a formare una comunità di cittadini, disposti a confrontarsi con la realtà, le amministrazioni per fare delle cose. Il supporto dell'università è importantissimo. A cosa serve? Serve a vedimarci nei confronti delle amministrazioni, perché noi parliamo con dei professionisti, non è che si sia solo qui a farsi prendere in giro da nessuno, a parte non ci si farebbe prendere in giro, ma qui c'è una serie di professionisti che ci aiutano e ci hanno aiutato a districarsi nelle carte, progetti, non progetti. Ora ce n'è uno grosso che parte, si chiama Arianucci, accanto alla Mercafir, dove viene costruito, l'ha comprata un fondo inglese che ha comprato anche l'area in via Gemignani. Allora, il nostro cammino arriva proprio a questo. La ex Arianucci è un'area Viale Guidoni, la proprietà, la vecchia proprietà di Accademia dei Civili. Se dalle notizie che abbiamo, la vecchia proprietà ha ceduto tutta a un fondo inglese, sia via Gimignani, sia tutta l'area Amerigo Taschio, Accademia del Cimento, via Barsanti e via Le Guidoni. È molto grande, ce n'è un pezzetto che sembra sia dell'amministrazione, ancora non si è capito. E tutto questo nostro percorso viene perché noi ci siamo domandati agli inizi, siccome si parlava anche di stadio a quell'epoca, guardiamo se si riesce a controllare che non facciano cose non adeguate. Per noi, cioè per la popolazione, bisogna prepararsi avanti, perché poi questo prima o poi, questo momento arriva, infatti sta arrivando, arriva. E noi, nel nostro intendimento, è quello di fare in maniera che questa parte di città prenda una visione di, prima cosa, rispettando, non è una frase tecnica, l'agenda dell'Europa 2030 che prevede molto verde, a Novoli c'è una zona lontana abbastanza, ma insomma c'è, che si chiama Pratone, che diventerà un parco, fermo restando, siccome sotto c'è un parcheggio di 3.500, sotterraneo di 3.500 posti, una cosa pazzesca. Sopra gli alberi, sì, 3.500. Che non ci va nessuno. Questa... Sugli alberi sopra non ci si possa mettere. Li stanno mettendo a spese dei contribuenti e non a spese dell'immobiliare. A spese dei contribuenti stanno mettendo gli alberi per farlo diventare nel futuro prossimo. Ci vorrà almeno altri 10 anni, grosso modo. 10 anni, sì. Anche di più. Anche di più, forse. Insomma, di dargli un aspetto. Altro non c'è, c'è Piazza Valdelsa e basta. Poi c'è dei gran palazzi, all'interno c'è strade orfane, sono cosiddette strade private ad uso pubblico, che ne è stato, sembra che all'epoca del commissario prefettizio ci sia stato, come posso dire, un accordo, ognuno si fa come ci pare e te sta zitto, insomma. E l'hanno fatto strade non a norma, e per quanto non solo sono private, perché non essendo a norma di legge non possono diventare pubbliche. Però non ce l'abbiamo sul groppone. E allora, tutte queste cose, poi strade strette sembrano essere a Napoli nei Bassi, città qualche extracomunitario, pochi, che sono, non sono molti, ma però c'è tutte queste stradine, diciamo così, vicoli non ben puliti, perché nessuno, siccome sono di nessuno, non si fa le orfane, dice non è mia una pulizia, quell'altro dice ma non è mia, mia. Tanto è vero, la definizione strade orfane è perfetta, e allora si vuole superare certamente questa cosa. Beh, era difficile, ma ce la dobbiamo fare. Ecco, a un certo momento viene fuori che c'è da un ventennio. È un trentennio. 20? 30. Anche di più. Sono 29. 20, sono 30 anni. A questo momento, io ci sono andato quando ci fu la festa dell'unità, D'Alema aveva scritto un libro e così. E questa era sempre lì, intangibile, la famosa centrale termica che serviva per mandare energia a lignite che veniva dal Valdarno. Questo si parla degli anni 32, 33 o 35. Questa è l'epoca. Questa lì è rimasta lì. Allora, parlando sempre con il metodo, disse ora ci fu un'intervista dell'assessore che diceva allora ora si rimette a posto e ci vuole quasi 3 milioni. E gli disse Alberto, 3 milioni, ma questi 3 milioni chi li paga? Il contribuente. Invece li doveva pagare, come se te tu mi fai un regalo a me, non è che tu, perché non si chiama pacco, se invece tu un regalo è un pacco. Ci regalarono all'amministrazione, così com'era, un pacco, spendita 3 milioni. E come si spesa questa spesa? La cassa delle opere urbanistiche, di urbanizzazione. Ma io gli disse a lui, ma quelli sono soldi miei, non sono mia per fare un piacere all'immobiliare, quelli sono soldi dei cittadini. Io li potrei spendere, se dovessi parlare per me, per le strade orfane, per fare i giardini e altre cose. Vabbè. Allora, da quel punto lì, lui, zitto zitto, cominciò a scrivere, non so se sarebbe bene cominciato, una grande passione per scrivere e ci riesce bene. Ha scritto questo libro dove fa un percorso di 29 anni fra progetti rimandati e pagati, questi progetti naturalmente in continuazione. Tutte le volte si faceva un progetto, dopo un po' spariva dall'orizzonte, non c'era più, e si ripagava un altro lavoro. Per 29 anni è successo questo, svariate volte, e qui sono tutti documentati, non sono chiacchiere, nessuno vuol fare chiacchiere. Qui sono tutti documenti ufficiali che dimostrano questo percorso, che sembra finalmente arrivato alla conclusione positiva, con la postilla che il positivo costerà alle tasche dei cittadini fiorentini, io dico Novoli perché risiede nella zona di Novoli, questi 3 milioni che doveva pagare l'immobiliare. Si è fatto questo libro? Ha fatto. Le abbiamo presentato quante volte? Questa è la quarta volta. Personalmente l'ho portato a un assessore, poi l'ho dato al presidente del quartiere. non è successo nulla, nel senso che uno potrebbe fare un commento, dire, hai ragione, è stato sbagliato, quindi, insomma, tutti zitti, ne prendiamo atto, sono rimasti zitti. Sono sordo, vieni qua. Questa presentazione di questa cosa che avete fatto, sarà fatta in un momento, cioè quando voi l'avevate pronta, era in un momento... No, guarda, mi dato venga qui che mi rimbomba la voce. La presentazione di questa ricerca, di questa analisi che avete fatto, sarà fatta in un momento specifico per l'amministrazione? No, o... per noi, per un percorso, come diceva... No, no, dicevo, ma l'associazione. Era... Perché noi siamo, ad esempio, con l'Emerson, ora provando a fare delle osservazioni al piano strutturale, quindi sappiamo che... Anche noi. La nostra azione, no, ha una temporalità, cioè dobbiamo essere precisi in quella finestra in cui possiamo presentare certe analisi. Sì. Ero... Questo è precedente ora al piano operativo di ora. E addirittura il consiglio di quartiere, con cui anche noi stiamo provando un po' a parlarci su cose molto più limitate, ci ha proprio detto noi non si conta niente, in genere non discutiamo minimamente. Ora non so quanto sia vero, ma questo è brutto, questo è quello che ci ha detto il consiglio di quartiere, ero quindi curioso. Malissimo. Ci ha proprio detto a proposito al, voi siete quartiere 5 anche voi qui, eh? Sì, quartiere 5. Cioè se c'è un pubblico che non poteva partecipare, ecco. Poi era utile perché avrebbe imposto la discussione. Questo sicuramente è utile. Ecco. Esatto, allora, ora non è che voglio stare, ci sarei forse anche capace di tanto, però voglio dire questo qui l'ho chiamato becivario per tutti quelli che non hanno partecipato come noi a questo percorso, che sono la stragrandissima maggioranza. Pinocchio gli fu detto, se tu vuoi imparare qualcosa, tu tenga la... lui l'ha venduto. Questo qui invece ognuno lo dovrebbe comprare e leggere. Non è una gran cifra, mi pare sia 10 euro. Ma perché questo? Guardate, mi richiamo, ora qui lo farei facile, ma siccome i personaggi sono stati due, la professoressa... del Michelangelo ha detto delle cose chiarissime e molto belle. Qual è la malattia? Si chiama indifferenza. Le radici della violenza fascista, in questo caso, cioè, anche all'epoca, lo scrisse Gramsci, è l'indifferenza. Se io, quando c'è questi problemi, chiudo in casa mia dicendo a me che me ne frega e così via. Con l'urbanistica succede uguale. Non è se tu ne sta attento, quelli sono angiolini, rose e fiori. Qui di fronte a noi, e l'ho detto anche a lui, non è tanto il fondo inglese che costruisce, gli disse a lui. Il fondo inglese che costruisce fa il suo interesse, il suo mandato, perché c'ha da pagare poi la pensione a tanti pensionati, perché nei fondi ci sono i fondi pensione e quant'altro. Ma quanto è quello che noi dobbiamo fare nei confronti delle amministrazioni? Cioè dire, il fondo va bene, fa la sua parte. L'amministrazione che è eletta dai cittadini deve fare l'interesse dei cittadini. Non è che ci debba essere un mescolamento, un connubio a fondo inglese e amministrazione, ognuno ha la sua funzione. Bisogna fare in maniera che i cittadini consapevoli, preparati e non indifferenti, ma consapevoli, devono controllare cosa fa l'amministrazione nei dovuti ruoli. Cioè, l'amministrazione è stata eletta, bene, io cittadino voglio sapere che tu fai, tu me lo devi dire come cittadino. Perché, come questo lo dico io, è roba mia, noi siamo azionisti di maggioranza, non siamo gente che passa. Noi siamo azionisti di maggioranza su quel territorio, perché ci abitiamo, ci viviamo e sappiamo le difficoltà, le cose che potrebbero cambiare facendolo in una stessa maniera invece che in un'altra. Queste cose che non avvengono assolutamente. Avvengono solo se te ti impegni, ma ti impegni, e non per uno scopo esclusivo, ma lo scopo della comunità, ti impegni a seguirle queste vicende, a confrontarti con l'amministrazione, che non è il diavolo. L'amministrazione, scusa, c'è un progettista o un geometra, quello che sa in comune, fa le cose, tra l'altro c'è anche il mal di denti, deve fare le cose, non importa assai se la cosa è fatta così o cos'è, basta rientri i metri cubi, può essere solo quello che vive il territorio, che ci cammina tutti i giorni, che lo conosce e sa cosa. Se te tu la fai in una maniera è un conto, se te la fai in maniera diversa, cioè da indifferente, è in fondo una porcheria. Di solito è successo. Allora, Novoli e dintorni è un concentrato di cose fatte male, che siano di pertinenza, per esempio la scuola dei carabinieri è stato lo Stato, secondo me l'amministrazione poteva benissimo dire guarda così non va bene, dice ma non si va via, va bene, andate via, arrivederci e grazie, si fa altro, c'è 10 milioni di turisti tutti gli anni, pazienza, si fa un'altra cosa, no? Uno. Allora, non è stato fatto delle scelte adeguate, anzi, non scelte, perché fra l'altro l'unico territorio libero di tutta Firenze, infatti detti grande urbanista, è nord-ovest, cioè la nostra area. E cosa hanno fatto? È sotto gli occhi di tutti. Allora, ora si tratta di frenare questo, diciamo così, cupo di soldi, non so se va bene, ma insomma, voglio dire, cioè dire, noi siamo alla frutta, dopo questo non c'è più spazio. O si fanno per bene o viene un'altra cosa. Si è chiesto l'interramento di Viale Guidoni, perché allora riunirebbe le due parti dell'abitato nelle due parti, sì, ma in altre città, io ho mia figlia che sta a Basilea, e una sera andai con il mio genero, c'hanno sulla cerchia esterna di Basilea, c'è un interramento di una autostrada, di una strada, e la città vive sopra, sicché sicuramente è all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno. Solamente sai, noi siamo la zona dove le opere rimangono tutte a mezzo, vedi alta velocità, termovalorizzatori, aeroporto, insomma si fa, non si fa, si parte o si fa. Insomma, su questo penso che sia importante non mollare. E devo dire una cosa, il segnale che abbiamo mandato, siamo tre gatti, non è che si sia, però è un segnale importante, a mio parere importante, nel senso che è diverso. Non è di protesta, non si parla di protesta, si parla di documenti, di proposte, di cose fatte, e come si vorrebbe fare, come si dovrebbero fare, perché finendo, oltre all'area Nucci, ora parte tutta l'area Mercafir, che è veramente l'ultimo spazio a disposizione. Fra l'altro l'area Mercafì è area di proprietà del comune, mentre l'area Nucci è tutta proprietà privata. Sull'area Nucci però, siccome io abito lì, tutte le persone vanno a lì, che fanno e che non fanno, sicché ci siamo parlati, si farà un report appena con tutti i documenti che abbiamo, che ci daranno, vero? Certo. Si farà un report e dire ci viene tre palazzi di nove piani. Io sto all'ottavo piano di fronte, ma non è quello il punto. Tu puoi fare i nove piani. Aspetta, a parte bisogna sempre tenere presente lo skyline, forse è bello andare a farsi benedire, ma insomma vedere un po' come si confronta con il cupolone, perché quando tu vieni dall'autostrada se lo facciamo vedere. Poi questi palazzi come li fate in quest'area, dove li fate, quanto verde mettete a disposizione da poter collegare al resto, no? Una violina così, perché quella, cioè dire, bisogna dargli una forma di continuità. Senti te che battaglie sono queste, se sono battaglie di idee e di proposte, che non c'è altra strada, non c'è altra strada. E soprattutto aree verdi. Solamente cioè, per smottare i giornali ci vuole, le bimbe sono al collasso perché chiudono tutti, non ce la fanno più. Le televisioni se ne fregano altamente, insomma, si cura un pochino, si comincia a ragionare. Ma detto questo, ora siamo alla porta con i sassi. Alla porta con i sassi, sì, perché non c'è più nulla. Mi avete di fare le cose per bene. Noi naturalmente siamo sempre presenti, non si molla l'osso. Io certamente non faccio più quello che faccio 3 anni fa, che non c'ho più energia. Mi ci vorrebbe lui, guarda, come controfigura, e fa così, io glielo fa così. Allora, perché purtroppo gli anni passano per tutti. La pandemia, insomma, vabbè. Allora, capito a lei il punto. Sembrano cose da poco, ma sono cose importanti. Ma la cosa più importante, e chiudo, è la formazione degli abitanti. Chi non è formato non può parlare. Io ho un grande, non può parlare, urla, senza sapere forse neanche quello che dice, ma non perché, cioè, ma capite? Io ho solo un grande affetto per una persona che si chiama Leonardo Boff, teologo francescano, ora non più perché perseguitato dalla Chiesa, ma lui non vedeva la Chiesa gerarchica, vedeva solo grandi tavole rotonde, perché le esperienze della vita sono medaglie, si diventa generale. La vita porta, lui diceva, contadini, medici, tutti intorno a un tavolo, tutti allo stesso livello, c'è anche il vescovo, in questo caso lui, insomma, li mette, tanto è vero la Chiesa era subito perseguitata, quando ha parlato dice non più Chiesa gerarchica, Chiesa di massa, Chiesa forse conciliare, se dice, non lo so. Insomma, allora, se tutti siamo lì, si parla e si parla, ma si parla se tutti si comincia a formarsi delle cose, si comincia a lavorarci, a stare a pensarci, e i confronti sia con Alberto e con gli altri associati sono su questo, come muoversi. Ma poi guardate, quando noi siamo partiti nel 2019, a dicembre ci siamo incontrati in un bar in piazza della Libertà. Dicembre 2018, fa ragione. Ci siamo, diciamo, associati nel febbraio. È nato questo gruppettino, dice, ma cosa si fa, cosa si può fare. Poi abbiamo, se fa cominciato questo percorso, abbiamo passato l'esame dell'università, perché certamente Alberto a un certo momento dice, ma non crederete mia, io mi debba sputtanare. Se non siamo pronti, io allora dopo di lì siamo stati presentabili nel nostro obiettivo e si è cominciato a lavorare. Ma quando si è avuto dei grandi entusiasmi, grandi persone che ci hanno seguito, come al solito, niente soldi, ognuno lo fa perché lo sente di fare, anzi delle volte si può anche rimettere qualcosa, ma è nella vita. Ecco come nasce. questo ambiente qui, questo, proprio questo, è una comunità. Vorrei che un giorno, da una forse provocazione, dovessero uscire fuori con le loro proposte. Cioè, se uno si è preparato, dice la comunità come funziona, l'ho visto bellino perché c'è il banchettino, cosa mi pare, ludopatia, cioè, fanno dire, qui si accetta tutto per capire cosa si può personalmente, non conviene prendere vizi in quella maniera, ma insomma, se è un gioco va bene, poi basta, insomma. Ecco, mi è piaciuto molto quello lì, perché le indica, dice, ti prende per mano la persona e dice, guarda, niente, tu puoi giocare, sappi però, insomma, nato una regolatina, insomma. Insomma, mi è piaciuto, devo dire, la cosa che mi è piaciuta di tutti è questo segno di attenzione a ognuno di noi, quello è un segno di attenzione alle persone. Ecco, però dopo, quando uno è preparato, non può rimanere rinchiuso, deve andare all'eccesso, deve buttare il cuore, tutto, fuori, all'esterno, e vedere. Io mi ricordo, ho letto contro l'edilizia, così, l'urbanistica selvaggia che c'è stata in queste aree, va bene. Bisogna poi però fare di tutto perché ciò non avvenga. Non una protesta fine a se stessa, una protesta costruttiva, anche collaborativa e propositiva. Perché quelli di fronte a noi non è che siano diavoli, sono persone. Sono come noi, quegli indifferenti che se ne fregano, insomma, fanno il suo, piccolino, dice, ma stasera... che poi io finisco il mio lavoro e poi vado in bicicletta, vado a giocare a calcetto, mentre intorno a lui gli casca tutto, non vede che c'è tutte le strade piene di buche, se le vede perché ci inciampa forse, cioè dire, non ha attenzione dove ha, per il territorio dove abita, e non può dare la colpa a nessuno, non può dare la colpa a nessuno. Piero, basta. Fai parlare Alberto che ha dato il suo basta. Libro, vero? No, io vorrei parlare un po' del libro, ma con questa bella premessa, come la vogliamo, di introduzione di Piero Osti, farò, dirò poche cose, non ho molto da aggiungere sul piano, diciamo, generale, magari qualche riflessione sul particolare. Intanto sono contento anch'io che Silvana Grippi, l'associazione e Fabrizio Cucchi hanno organizzato questo incontro, perché lo trovo veramente molto interessante. Grazie. Anch'io. Perché si confrontano. Grazie. Un'esperienza di un rione, come dire, come ha spiegato Piero, e nasce un po' così, la voglia di prima di tutto di capire le cose, conoscerle, formarsi, e dopo giustamente... fatta un po' così colorita, ma insomma era vero, cioè prima di uscire fuori l'associazione ha fatto un percorso di conoscenza, perché è fondamentale, l'ha ribadito tante volte, sì, l'università, alcuni colleghi hanno dato una mano, va bene, però in realtà quello è stato l'elemento più significativo, è proprio questo percorso, cioè i cittadini una volta hanno scelto di diventare attivi, però dovevano misurarsi a fondo con le questioni, non semplicemente fare una critica, fare una risposta, eccetera. Dovevano capire bene cosa era successo nel rione, cosa stava succedendo, e poi cominciare il percorso di iniziative. Iniziative anche questo è molto significativo, culturali, anche l'associazione, come qui, quante iniziative culturali ci sono, ma anche l'associazione le ha fatte. Per partire dall'identità del rione di Novoli. Il rione di Novoli a Firenze è considerato la periferia, no? Una roba che nasce negli anni 50, non è vero nulla. Nasce nel 1000, ci sono tre chiese millenarie, eccetera, eccetera, c'è Villagli e quant'altro. Quindi in realtà era un pezzo di Firenze antico, ma nell'immaginario collettivo era anonimo, c'era una roba nuova, brutta e basta. Quindi prima di tutto ci si riappropria di quello che è il senso di dove si vive, dove si abita, si lavora, non è necessario, l'identità non vuol dire naturalmente un marchio su una cosa, la comunità, come si è detto prima. Quindi iniziative anche culturali, molto, è molto importante l'aspetto culturale, no? Non è solo un'attività così interessante, di studio, eccetera, è un'attività che fa veramente capire le cose, mette insieme le persone, le fa ragionare, che sia sul passato che sul, e poi sul moderno, come ci siamo arrivati. Però abbiamo cominciato a ricopriare la storia di Novoli. E l'altra cosa che accomuna le due esperienze è questo aspetto, quindi la volontà di essere attivi, conoscere le cose, vivere le cose, conoscere e poi uscire ognuno con le sue forme, ma anche questo va benissimo, qui c'è un aspetto più forse tradizionale per certi versi, si rimarca questo aspetto della proposizione, della partecipazione in questo senso, qui più radicale, me lo vedo io così sostanzialmente, quindi anche più visibilmente, poi qui si fa autogestione, cosa che l'associazione, ci sono delle cose simili, non ci sono, anche che l'associazione è autogestita, assolutamente, non è banale questo aspetto, perché anche chi fa politica in città attiva, diciamo, comunità, spesso hanno finanziamenti, sono avvisati, quindi anche questo, avere una forza di libertà come qui è molto importante, essere liberi, autogestire e poi la comunità, questa è una comunità, beh, il Rione è un'altra cosa, certo, è più grande, più complesso, però sicuramente la tensione è sempre quella, costruire giustamente comunità, cosa che non c'è oggi praticamente in Firenze, un po' inoltrarlo, forse è rimasto qualche frammento a Firenze, chiamiamole comunità, però poi sostanzialmente purtroppo anche qui si è perso molto. Qui viceversa invece si riparte dalla comunità, quindi dall'essere, da riconoscersi e vivere insieme, dopodiché ci si confronta. Ecco, questo tema del confronto mi sembra molto interessante. Sono due modi diversi probabilmente di vivere e partecipare alla vita comune della città, però sono due modi molto simili nelle radici di fondo. E quindi è bello questo incontro, speriamo che si prosegua e lo troviamo molto, molto utile, molto interessante, anche per la contaminazione della diversità, no? Certo. Che è fondamentale. Questo vale, se posso dirvelo, ma una cosa ve lo dico io con molta umiltà, forse vale anche per Emerson, perché a volte noi stessi, per esempio, non viviamo questa realtà, non la conosciamo, non ci veniamo, e sembra una cosa che riguarda... Altro. È come una parrocchia, ci vanno i fedeli, ma non è vero, come una fabbrica, non sono gli operai, eccetera, eccetera. Quindi forse anche la contaminazione con... Ma so io sono venuto l'altro giorno, 3 o 4 giorni, a vedere, perché... Non c'eri mai stato. Ma loro fanno assemblea, c'è un'assemblea con Rione, questo è fondamentale. Ecco, questo è fondamentale, come è fondamentale che noi si possa parlare, per esempio, qui e da altre parti. Quindi il superamento, quello che dicevi dell'essere in comunità, vuol dire che poi non siamo non solo chiusi in casa, ma non siamo chiusi nemmeno nel Rione, che giustamente, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono le cose chiamiamole di fondo che ci fanno star bene insieme, ci avvicinano. Due parole sulla storia infinita e su questa parte qui di Novoli. Ora non c'è la proiezione, era interessante anche vedere le immagini, ma non importa, magari lo faremo un'altra volta. Questa vicenda nasce dalla conoscenza di dove si vive, giustamente, e tanti cittadini, noi per primi del Rione, vedevano questa ciminiera, dunque partiamo dalla fabbrica Fiat. Altra bella questa cosa, la fabbrica Fiat, l'Emerson, vedete, le cose poi sono comuni, no? L'Emerson, lo sapete, la storia la sapete meglio di noi, e noi, quella della Fiat anche, quanto è stata pesante questa vicenda proprio per la comunità del Rione di Novoli, perché la Fiat non solo era una fabbrica importante, naturalmente, che dava molto lavoro, eccetera, ma aveva costruito in quegli anni, in via Forlanini, un pezzo di Rione, e gli operai che lavoravano in fabbrica e vivevano lì. Tra l'altro Rione, Forlanini, come l'isolotto anche meglio. Anche Forlanini non è male, case basse, con un po' di verde. La qualità di Forlanini è molto meglio di tutto il moderno che c'è ora. Allora, l'andare via della Fiat a Novoli e a Firenze poi, come la Galileo o l'Emerson, È stato un errore tragico per come lo vediamo noi. È stata una mega speculazione pazzesca, 100 volte più dell'Emerson, perché fra tante cose possiamo dire di durissima critica a questa vicenda, è che la Fiat non solo è venuta, ha fatto il suo e poi se n'è andata, ma quel terreno della Fiat dove ci ha fatto la speculazione, con tutto quello che hanno fatto di residenze, è un terreno che non era della Fiat. Nel 1935 l'allora potestà fascista fu dato un comodato, di Firenze fu dato in concessione, avevano interesse, ci fosse una grande industria, e dici comune, allora era fascista naturalmente, quindi a maggior ragione erano d'accordo, gli dette questo terreno su cui fare la fabbrica, tutti contenti. Ma quando la fabbrica è andata via, quel terreno era in comune, non era della fabbrica, questo non ci si ricorda, non si dice mai. Ma vi rendete conto cosa vuol dire di ritorno di questa vicenda? Vabbè, quindi nasce questo, poi molto altro si può dire. Posso fare un inciso? Prego. Ci sarebbe da studiare a fondo questa cosa. Sì. Perché non è che debba finire così. Sì. Sì. E anche l'Emerson, e anche il Galileo e tutto il resto. Cioè ogni volta che un'industria, una fabbrica, una iniziativa di lavoro, eccetera, si sposta, bisogna capire perché, come, cosa rimane, cosa succede, e poi alla fine succede niente, il disastro, la speculazione, gli interessi di chi la trasforma quell'area, si perdono le comunità di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non sono cose banali, cioè una fabbrica in un luogo, non è nulla, ma è una cosa molto importante, molto importante. Vabbè, detto questo, e poi che succede? Succede che la Fiat quindi si mette d'accordo con l'amministrazione sbagliando gravemente in quegli anni, ma forse più che sbaglio, chissà, come nel libro c'è tutto materiale documentale, io vi metto un sacco di domande in questo libro, poi ognuno si dia le sue risposte. Però quando fu deciso di spostare il centro di Firenze, lasciare il centro da parte degli studi, tribunali, avvocati, università, la Cassa di Svezia, fu deciso questo viaggio a nord-ovest verso Novoli, va bene? Non pensarono poi a cosa succedeva nel centro storico di Firenze, o lo pensarono, domanda. Erano consapevoli, poi sarebbe successo che la desertificazione, il centro storico non c'è più residenti, tutto in mano ai turisti, l'avevano immaginato o forse no? Che oggi sento addirittura politici di allora e dicono beh forse abbiamo sbagliato, effettivamente è stata un'operazione, eccetera, eccetera. Non lo so, io vi metto delle domande, poi un giorno poi discutiamo anche di questo, però per ora fermiamoci alle domande. Quindi questa operazione, a mio parere, grave, comunque la si legga, poi vediamo perché e per come, fa questo danno al rione di Novoli e fa un danno complessivamente anche a questa città, perché poi squilibra, eccetera, eccetera. Dopodiché a Novoli, per esempio, un'altra questione che succede nella speculazione Fiat, si fa il Palazzo di Giustizia, bello, brutto, insomma. Enorme. Si fa l'università, bene, male, punto di domanda, la banca. Si fa una conferenza, si fece diciamo, ora fermiamoci qui, nel senso che è giusto aver portato e come è portato, perché poi se andiamo lì a vedere i ragazzi, gli studenti studiano e se ne vanno, cioè in realtà questa operazione anche fondiaria per il quartiere non ha portato niente. Al Palazzo Giustizia si entra, si esce, si può parcheggio dove si trova, la gente piglierà un caffè in qualche bar e morta lì. L'università, i ragazzi vanno, vengono, ma non rimangono nel rione, non c'è nessun momento di scambio. La banca, per l'amor di Dio, quella è una scatola brutta, c'è un giardino, addirittura siamo a livelli, il giardino della banca interno, non so se l'avete mai visto, che è anche bello, la gente ha quasi timore di entrarci perché pensa che sia privato, siamo a questi paradossi. E abbiamo detto l'università, la banca, questa operazione qui non ha portato nessun equilibrio nel rione davvero, non c'è stato nessun progresso nel rione con questi investimenti, ma soprattutto, e poi il parco, ho già detto, il parco, anche lì, altro bellissimo operazione, questo si può dire, no? Il parco faceva parte dell'accordo per cui l'immobiliare fa il parco male, spendendo il meno possibile, non piantandoci niente, i tubi rotti, tutto il disastro. Dopo 10 anni va al comune. Cioè questa roba che adesso ci deve mettere mano, noi dobbiamo rifarlo da capo perché è un disastro e gestito, beh, fin lì al limite ci può stare, anche se lo facciamo un parco come pubblico, va bene, ma in questa operazione così no, così non va bene. Dopodiché l'ultima cosa, le residenze. Ora a Novoli nell'area Fiat sono costruite tutte residenze di lusso, poi di lusso se andiamo a vedere sono molto care come costo, ma non è che possiamo meravigliare, vabbè, comunque detto questo sono tutte residenze di lusso per la borghesia altolocata. Ma avessero nell'accordo fatto a suo tempo, avessero detto non so 20% facciamo edilizia popolare, almeno quello, io non dico ma no, ma almeno dici mettiamo almeno un pezzetto, invece almeno nello scambio famoso diamo anche un po' di agio a chi ha invece di firma. Incredibile. Quindi la vicenda Fiat Novoli è una cosa incredibile, la vicenda invece della ex ciminiera. In questa partita il comune, altra perla, che poi è così, anche lì domanda, è una idea del comune, è un'idea dell'immobiliare, boh, vediamo. Dice, allora io della centrale termica, questo bel birillo dove c'erano le caldaie per tutta la fabbrica corposa, con la ciminiera e quant'altro, fra l'altro simbolica, ora non c'è le proiezioni, ma ci sono fotografie dell'epoca dove c'è la ciminiera, il film di Cronache Povere Amanti di Zurlini, si vede benissimo, insomma era anche un pezzetto di nuovo di identità post-industriale, però aveva il suo perché. E allora dice, vabbè, la teniamo in vita, dice il comune, poi ci faremo qualcosa su un ristorante, sotto uno spazio per fare le mostre. Va bene, allora dice, siccome l'immobiliare Novoli doveva dare doveva come gli oneri di urbanizzazione, no? Quando fai un intervento privato dal comune spetta una quota rispetto alla quantità di volumi che costruisci. Doveva dare al comune questi 2 milioni e 8 di euro. E il comune dice, allora guarda, non mi li dare, rimetti a posto la centrale termica e si fa pari. Ora, prima domanda, ma se si fosse sentita la popolazione, a te per esempio, ti dicessero, guarda, ci sono 2 milioni e 8 in ballo, vuoi che li mettiamo a posto la centrale termica o facciamo un asilo, facciamo un verde? No, penso che avremmo detto tutti l'asilo. No, se poi si può fare tutto, si può anche fare archeologia industriale, non è che sia una cosa vergognosa da non mantenerla, per l'amor di Dio, però facciamo un po' di conti, eccetera. Ah, quindi, altra questione, perché facciamo? Vabbè, comunque hai fatto questa scelta, hai deciso di dare questi soldi per mettere questa struttura e falla fare. E poi falla fare, sono passati 29 anni. Questa cosa è ancora lì e ci sono stati progetti, qui è tutto documentato, concorsi, progetti, allora a un certo punto il comune... 3 milioni un po' che sono finiti. Ma, no. I milioni sono sempre lì. I 2-8 milioni sono stati messi lì. Sono messi da parte. Altra domanda, e come? Questi soldi chi la gestisce? A quest'ora da 3 milioni si era diventata investibile. Lo so, comunque sì. In 29 anni. E allora, hai firmato questi soldi, perché lavori non sono... Ma perché? I politici spesso dicono, politici, ho fatto politica anche, non voglio fare ora il furbo in questo senso, ma spesso in politica si dice, è colpa della burocrazia, no? Quando le cose, no? Ma è sempre colpa della burocrazia, no? In genere è così, non vanno avanti le cose. Qui la burocrazia non c'entra nulla. In questi 29 anni non c'è nessun passaggio burocratico che ha impedito questa operazione. È stata scientemente non fatta direi così, di proposito. Perché? Perché a un certo punto il comune dice, sai cosa, non la fai questa, non la porti avanti questa cosa, la faccio io. Mi dai i soldi? Meno male, dimmi. E ci penso io, comune. Beh, dopo 2 anni siamo punti a capo. Allora dopo altri 3 anni dice, sai che, ti ridò i soldi, falla te. Cioè è una barzelletta questo. Quello è successo in questa centrale termica, se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere, una barzelletta grave. Solo che cos'è? Un esempio, secondo me, calzante di quello che non doveva e non deve succedere. Non è possibile che si possa avere queste cose fatte, non fatte, fatte male così. Quindi fare questo libro, in realtà, documentare tutte queste cose, rispetto, poi ci sono tutte le domande, c'è da capire perché davvero poi, cosa è successo? Ma che cosa è successo in questa partita davvero? Tutti questi stop and go, cose, va, ogni due anni dicevano siamo a posto, si parte col cantiere, fra due anni è finito. Ma è incredibile, là non c'è l'impressione. Tutte le foto dei sindaci, gli assessori, ogni volta così. Ora l'ultima battuta, e chiudo su questa vicenda, è questa, ahimè, perché comunque sono soldi pubblici, cioè comunque a maggior ragione sono soldi nostri, quindi bisogna anche a maggior ragione che noi si metta le mani e voce in questa partita, perché che è già così insostenibile. Cosa è successo? Che dopo tutti questi anni finalmente hanno cominciato a fare i lavori. Bene, il progetto da un pezzo era pronto, quindi se è passate ora non ci sono più punteggi, c'è questo colore grigio, hanno rifatto le facciate esterne. Però con questa scelta di mantenere, fra l'altro, anche lì, ma perché diamine hanno voluto mantenere le centrali? Chi le vede? Cosa è assurdo? Vabbè, ma lasciamo fare, c'è tante cose assurde. Comunque, detto questo, con quello che è successo purtroppo con le vicende della crisi energetica, guerra e compagnia, i costi, come sapete, dei materiali e tutto quanto sono lievitati. Quindi adesso cosa succede? Questa è una cosa che io le voglio dire oggi e ci voglio che ci torniamo sopra per capire. Adesso quei famosi 2,8 milioni non bastano. Io ho parlato con il progettista del comune che ha dovuto ammettere, oh, della verità, perché ci mancherebbe, loro adesso hanno bisogno di trovare 600.000 euro per andare avanti. No, che non hanno, e dove li piglieranno? Dal bilancio comunale? Ma è giusto questo? È giusto, poteva essere già fatta 29 anni capito. Fa, allora questi 600.000 euro, allora questi 600.000 euro che ti tocca in più spendere me li devi addebitare a quello che è successo prima, perché voglio capire perché ci hai messo 29 anni, perché quei soldi sono stati tenuti nel cassetto e perché oggi mi sfori e me li fai pagare a me di una cosa. E fra l'altro, e chiudiamo la partita, perché questo è il solito film e deve interessare tutti, una cosa è noi non abbiamo mai deciso, noi non c'è mai stata una riunione a Novoli dire cosa volete nella ciminiera, non è stato chiesto, non esiste questo aspetto che io spendo dei soldi per un qualcosa di cui nemmeno, che poi i cittadini non hanno voce di poter quello di che dice lui. È vero, Alberto, ci mancherebbe, quelli sono mancati i cittadini, un po' che ragione. Dicessero qualcosa, un po' è vero, e questo l'hai detto prima all'inizio, quindi il problema della conoscenza, di invitare i cittadini ad attivarsi, ma questo siamo tutti d'accordo su questo. Certamente, ma non deve essere un alibi, no, lui ha ragione, ma non può essere un alibi quell'amministratore. Cioè, ma non mi avete detto niente, mi fanno così, no? Come mai non mi avete scritto mai nulla? È troppo comodo in questa maniera, no? Poi sai com'è, però sono carte segrete di Pulcinella, dice lui. Ah sì? Però dei progetti ancora non si è visto nulla, comincia ad arrivare delle schede. Ecco, veniamo. Cioè, capito? Veniamo a quello che interessa a tutti noi, che qui come a Novoli, adesso c'è il piano operativo, l'ha già un po' detto Piero Osti, sul Novoli che è stata distrutta dalla speculazione degli anni 50, è stata distrutta, la verità, fatto male, distrutto, eccetera. Parzialmente compromesso anche con questa vicenda Fiat, perché comunque era un bel lotto di terreni. Avessero fatto un progetto come si deve, come interessava ai cittadini, come aveva fatto Crier, eccetera, come pensava di farlo lui, forse questo pezzetto invece di essere così poteva essere veramente un'area molto importante per riequilibrare il disastro degli anni 50. Ora ci sta piovendo sul capo a Novoli l'ultima, lo tsunami, io lo chiamo così, perché sono centinaia, migliaia di metri cubi e metri quadri di cemento o asfalto, perché poi fra cemento e asfalto è lo stesso, che piovono su questo rione, la Renucci, persino la terza torre della regione Toscana. La regione Toscana c'ha bisogno di spazio, costruisce un altro birillo lì a dove, ma insomma, tutto lì dove è ora, come così, tutto senza che nessuno sappia niente, dica niente. Allora voglio dire, questa vicenda ci arriva ora, che noi dobbiamo studiare, perché sono le schede. Ed è giusto sia così, perché non è che possiamo non recedere da queste cose, dobbiamo conoscere, studiare, che ci vogliono fare, dobbiamo studiare bene e preparare le osservazioni. Questo credo succederà anche per voi, per questo rione, normalmente. Quindi bisogna prepararsi su questo piano delle osservazioni, di leggere le schede e proporle. Quando abbiamo un po' chiarito le cose, guardate, è importante questo, le osservazioni possono essere fatte su quello che intende fare il Comune, ma possono essere il momento anche per fare delle osservazioni nuove, cioè se noi vogliamo un'area verde, non possiamo, anche se non sono previste, le possiamo proporre al Comune. Questo è importante, perché poi dice lui, ma servirà, sarei in grado di... Non lo sappiamo nel senso... No, noi siamo, anzi, incredibilmente in linea prezzo con tutto quello che avete detto. Cioè, no, ma tu hai detto, però questa cosa che faremo, le osservazioni serviranno, ce le prenderanno in considerazione? No, io chiedevo, era più una curiosità generica, se era... No, ma... Il vostro lavoro era pronto, l'avete presentato... No, ancora, però la domanda è lecita, perché molti cittadini... Ecco, torniamo al punto. Sono indifferenti, purtroppo è vero, hai ragione. Però c'è anche chi si pensa di non farcela, che non è pronto, non ha le conoscenze, e che poi il mondo ormai va così, non possiamo cambiarlo, no? Questo è il problema di fondo della comunità, in tutta tutto il mondo forse. Quindi l'elaborazione, il lavoro che si fa qui, noi, serve anche a questo. Non lo so se poi... quello che proporremo, qualcosa siamo riusciti, il mercato sicuramente un fatto è riuscito, fino a quanto potremo impedire per esempio questa distruzione se era sul nome, però dobbiamo farlo, dobbiamo provarci, dobbiamo assolutamente essere ottimisti, però insomma volerlo fare, pensare che sia giusto farlo. Finito c'è la Silvana, poi... Cioè, ad esempio, l'aspetto di radicalità che hai citato è senza dubbio centrale per noi, ma l'urbanistica, l'urbanistica e l'impegno civico, diciamo, no? La declinazione che abbiamo per noi è proprio, cioè in realtà sulla pratica, non deve servire a tutto ciò che avete detto, l'aspetto di formazione, di precisione, di cercare di coinvolgere il territorio il più possibile, senza un dubbio. La parte invece che credo che amici pressi sia dare una declinazione politica, cioè far capire quanto la partecipazione nel nostro senso è quotidiana, cioè partecipare a un'assemblea, in un certo senso usiamo la pratica strumentalmente a una concezione, una consapevolezza di quello che è il territorio, alle esigenze che ha quel territorio e di andare esattamente come avete detto voi, compreso di formazione. Che è successa per capirsi e qui anche più scusate, sia internamente all'Evanson tra di noi, perché tra l'altro sono nate delle gelosie vivissime tra gruppi che erano più consapevoli e gruppi meno consapevoli di internamente, perché ci siamo carellati, c'è tipo la diversità, la complessità delle cose. E anche fuori con le persone del quartiere che abbiamo sempre, in cui è successa una cosa molto fatta, secondo me, che quelle che tiriamo all'infinito in quei recuperi delle aree, e quindi hanno creato una sfiducia profonda da parte della cittadinanza verso la realizzazione dell'opera cinerica. Questo meccanismo a noi ci è sembrato che abbia creato nell'individuo generico davvero quel ragionamento del meno peggio, una serie. Sì. Ok che ce l'amianto, però via, sarà meglio due palazzine che non ci servono piuttosto che... Esatto. E questa roba qua, nel tipo di proposta che ci è sembrato di sentire, insomma, è un disastro quell'area, è vero. Ormai ci sei quando tu ti muovi, cerchi di essere proattivo, tutto tira in alto, cioè, chiedi di andare a verde, non chiedere le palazzine. Fatto in maniera precisa, ma non chiedere, che ci è capitato di fare delle riunioni in cui io personalmente ci parlo, sono rimasto super male che rappresentanti della politica fiorentina più prossima a noi in generale accettassero come soluzione Airbnb, sono un problema a Firenze, l'idea di costruire più albergo, quindi di recuperare le aree distrutte, perché no, aspetta, almeno quella legale, quello è un albergo buono, così si risolve il problema Airbnb, ma si costruisce un albergaccio con 5 strutture a Firenze, mi sembra veramente una roba folle, Ora nuovo un altro studio hotel. Altro, no, anche a stu- ora nuovo, nuovo studio hotel. Ora fa. No, però sì, sì, hai ragione. Era giusto sull'aspetto di narratività che per noi è tentare di declinare questa sì, pratica, sì. Però la pratica è veramente mi sembra del tutto simile a quella di sì. Allora, io vi ringrazio della vostra presenza perché probabilmente non siamo molto abituati a, ad avere uno scambio così immediato e tranquillo su degli argomenti che a me fa arrabbiare tantissimo. Noi come associazione culturale, socioculturale DEA ci siamo buttati su questa operazione, perdente naturalmente, perché ci rimetteremo un sacco di soldi, perché le pubblicazioni così non vanno di moda, ma sono quaderni bianchi di lotta dura contro tutta una serie di sfruttamento delle periferie. Ebbene, noi abbiamo iniziato a lavorare insieme volentieri andando dappertutto, dalle murate chic, nobil e cretini a tutta una serie di personaggi che effettivamente ci hanno dato dei contributi validi, tipo la loro associazione, l'altra associazione Legambiente, sì. Poi insomma, abbiamo avuto dei riscontri che la biblioteca Buonarroti, che fra tante biblioteche comunali è all'avanguardia, ora andremo anche alla biblioteca delle Oblate, quindi per noi già essere all'interno di dinamiche che escono fuori dal dibattito popolare come siamo noi cresciuti degli anni 70 ad oggi, quindi in lotta contro lo Stato, ci porta a una visione molto più ampia. Ebbene, cosa succede? Succede che io sono andata a lavorare, parto da me, scusate, perché è bene partire da noi stessi, dalle nostre piccole esperienze. Io ho iniziato nell'82 a lavorare al servizio tecnico dell'università. Queste cose, queste programmazioni erano già tutte in preparazione, era in preparazione Novoli Universitaria, era in preparazione tutto il bluff del centro storico che andava svuotato perché i sindaci volevano una città vetrina. Chi ha lottato insieme a noi lo sa, insomma, cosa ha voluto dire per noi la perdita di quartieri come Santa Croce, San Frediano, Santo Spirito. La gente che abitava lì naturalmente se n'è andata. Se n'è andata in un'edilizia popolare prima negli anni 60 con la pira, che mettiamoli tutti alle minime, alle piagge, vediamo di fare in modo che massifichiamo il sottoproletariato. Il proletariato lo mandiamo a Novoli perché ci sono le fabbriche, poi le fabbriche sono fallite. Non ci sono più fabbriche, la Fiat se la sono venduti proprio, quindi noi siamo rimasti senza quel substrato operaio, senza quel tipo di preparazione e di difesa per difendere Firenze. Firenze è persa. Ieri, cosa più vergognosa, hanno fatto fare una manifestazione dove io abitavo, Santa Croce, via delle Conce, via di Mezzo, via... tutte le vie più piccole che c'erano purché non andassimo in centro, ragazze. Cioè, vi rendete conto che ci hanno portato nel posto che una volta era popolare, ma dove non c'è più nessuno che vi abita, purché non facessero vedere una manifestazione con 40.000 persone. Cioè, si camminava di lato, si stava tutti attenti e Santa Croce bella, tutta fiorente, piena di politici che si riempivano la bocca. Ecco, questo per noi vuol dire che abbiamo perso la città. La città non è più andare in piazza Duomo, in piazza dove possiamo protestare, dove possiamo, luoghi dove possiamo andare a dire la nostra. No, vai nei bar. Oggi se vuoi dire la tua vai in qualche piccolo localetto, perché non ci sono più gli spazi di una volta. Una volta andavamo nei cinema, prendevamo spazio nelle piazze. Oggi nelle piazze sono già occupati dai politici, quindi non parli. Ritornando all'82, quando io lavoravo al servizio tecnico dell'università, già gli studenti non venivano più considerati, anche se pagavano le tasse. Figuratevi ora che c'è l'università Cusano, c'è l'università privata, ci sono le università americane, in 2 anni ti prendi una laurea, cioè hanno svenduto anche la nostra cultura. Quando noi facevamo l'università si studiava, erano 5 anni, ma erano 5 anni veri. Ora non sono più 5 anni, te ne danno un piccolo diploma a 3 anni, poi ti danno un'altra cosa dopo 2 anni, ma tante piccole cose. E così fanno con i quartieri. Allora, Novoli, perché noi abbiamo preso come definizione micro problema o macro problema, come lo volete definire voi, perché Novoli rappresenta la svendita di tutto, rappresenta quello che vuole fare l'immobiliare. Noi siamo in mano alle agenzie immobiliari, sono loro che fanno il prezzo, sono loro che fanno i quartieri, sono loro che fanno il bello e il cattivo tempo. Cioè, se vuoi vendere una casa devi andare all'immobiliare, se vuoi trovare una casa non la trovi, te ne vai in periferia. Quale periferia? Vai a Novoli, che hanno chiuso anche lo spazio di Novoli. Una volta a Novoli potevi comprare casa, una volta a Novoli potevi avere come referente gli operai che c'erano, e la Fiat rappresentava qualcosa. Negli anni 60, 70, 80 gli operai della Fiat facevano scuola, facevano quello che oggi non esiste più, cioè mandavano da mangiare a una città. Io mi ricordo che avevo amici che abitavano di fronte alla Fiat, avevano le case per la Fiat, c'erano. Ora sono tutti piccoli padroncini, quindi lì le case non esistono più. Se uno studente vuole fare qualcosa va solo nella cittadina universitaria e trova negozi di sport di lusso, negozi di abbigliamento di lusso, no? Non trova più il piccolo negozietto. Gli stranieri non ci vanno in quei quartieri, se ne stanno tutti in centro. Quindi noi che abitavamo in centro negli anni 80-90 ci troviamo fuori dal seminato proprio, cioè non ci sono più gli amici di un tempo, non ci sono più le scuole di un tempo, perché anche le scuole hanno chiuso. E quindi fare una denuncia su quello che vuol dire periferia oggi è diverso di 2 anni fa. Se 2 o 3 anni fa per noi la periferia era come nascita un luogo dove noi potevamo avere dibattiti o persone che vi abitavano, che era di Firenze, ora la stanno spopolando. Non c'è più gente di Firenze che abita a Novoli. Siamo andati a vedere i campanelli, non c'è più nessuno. E non per fare un discorso che Firenze deve essere di Firenze, no, Firenze è di tutti. Firenze deve essere di tutti, così lo stesso deve essere Novoli, così deve essere il centro, non che deve essere dei fiorentini, tutte queste battaglie, Firenze dei fiorentini, basta, cioè, con gli stranieri, no, ci dobbiamo stare tutti, perché sono luoghi dove non dobbiamo farci espropriare da quello che è la vita comune. I giardini pubblici. Se provate ad andare a Novoli, non sono più giardini pubblici che c'erano 5-6 anni fa. 5-6 anni fa andavano anche a prendere il sole. Ora guai, ora c'è i vigilantes, guai se ti avvicini a qualunque cosa. Cioè c'è il Ministero di Grazia e Giustizia e quello impone. La gente va solo per andare in tribunale a Novoli e non è bello. Cioè, Novoli è di tutti, Novoli va riconquistata, Novoli è un bene comune e quindi va rispettata, va seguita e tutti quanti dobbiamo prenderci in mano le periferie. L'unica periferia che forse c'è un po' di anima è le piagge, forse lì ancora qualcosa c'è di umano, di rapporto con la cittadinanza. Poco, ma c'è. Novoli la stanno distruggendo. Novoli è in mano alle immobiliari, e quindi questo mi dispiace, cioè non possiamo assolutamente concepire una periferia che è in mano alle speculazioni, e quindi è bene che vengano questi libri bianchi di denuncia, perché non sono denunce da poco. Cioè il professor Di Cinti ha fatto un lavoro degno di essere preso in considerazione fin dal primo rigo, perché qui c'è come sono bugiardi i sindaci di Firenze, come sono stati bugiardi tutte le amministrazioni comunali che sono passate, perché hanno fatto le loro campagne elettorali su fra un anno avremo, e non abbiamo avuto niente, fra un anno nascerà un urban center e non è nato, fra un anno, e come dicevo noi sono passati 29 anni, 29 anni di presa in giro. Cioè, se, ditemi voi se è accettabile essere presi in giro per generazioni, perché ormai è generazioni, perché se si parte dalla pila agli anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, sono 60 anni, l'età mia. Quindi quello che speravamo noi quando eravamo giovani è ancora da sperare che avvenga, cioè che è un quartiere, che è un rione, diventi popolare, diventi del pubblico che vi abita, diventi un posto dove si possa vivere tranquillamente, dove si possa trovare casa, dove si possa trovare. Invece vai lì e ti dico no, ormai a Novoli non c'è più casa, dove andiamo ad abitare se dobbiamo spostarci? Cioè quello mi preoccupa più di un urban center che non nasce. Mi preoccupa anche che non nasca un urban center che diventi momento di aggregazione di tutte le persone che abitano lì, però fra un po' ci fanno tutte sopraelevate, e quindi questo è un'altra analisi da prendere in considerazione. Poi niente, basta, io non voglio farvela lunga, perché la mia rabbia verso come è stata ridotta la città, ma io parlo della città come potrebbe essere Roma, Venezia, Firenze, tutte città che non sono, hanno superato la zona città vetrina, ormai sono diventate città museo, paghi per entrare, paghi se entri con la macchina in qualche posto anche di zona ZTL, guai se ti fermi in qualche posto, perché la multa te la fanno lo stesso. Quindi abbiamo solo come spazio i viali a questo punto. I viali, facciamo una giratina in centro e poi dove andiamo? Cioè se non ci fanno a Novoli per i giovani campi sportivi, se no vanno tutti dal personal training. Oppure ci fanno, cioè veramente, zone di aggregazione, cinema, spazi pubblici, biblioteche aperte. Non c'è versi che puoi vivere in una periferia. Non ci fanno nemmeno le scuole, non ci stanno facendo nemmeno le scuole. È nata qualche scuola ultimamente a Novoli? No. È nato qualche asilo? No. Sono anche troppe le ci sono. Non nascono perché non ci sono bambini, purtroppo. Sì, ma in ogni modo... I bambini, la scuola è una cosa diversa. Le scuole superiori, e ce ne sono pochissime a Firenze, cioè non è che le scuole, se non nascono scuole perché non ci sono bambini, i bambini ci sono se si trova le case, se non ci sono più case non ci sono più nemmeno bambini. Vabbè, stiamo cambiando la società, la stiamo distruggendo. E, se volete, sì, lo chiudo. Se volete libri, allora la nostra casa editrice, i libri sono lì. Se li volete facciamo lo sconto di 5 euro al libro per oggi. E, quindi se vi interessa prendeteli in considerazione, perché noi fra un anno o due chiudiamo, se non. E poi grazie. Grazie. No, grazie. Va bene. Grazie a voi.